Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, bentrovati da Giulia Crivelli. Eccoci con la nostra Rassegna Europa, dove cerchiamo di guardare i giornali che magari già normalmente guardiamo e osserviamo, sono quelli nelle lingue più accessibili, però cerchiamo anche di trovare qualche chicca in lingue che normalmente non leggiamo e che grazie a siti come presseurope.eu, per esempio, che è collegato a internazionale, ci permettono appunto di capire che cosa si dice anche fuori dai nostri stretti confini europei, nel senso di vecchia Europa, perché ormai l'Unione Europea è appunto questo stupendo puzzle di lingue e di culture. Ma cominciamo dallo Spiegel, che è un po' il settimanale insieme a Stern di riferimento in Germania, che approfondisce il ruolo di Angela Merkel in Europa. Ora sappiamo che ogni giorno in realtà è difficile fare il punto su quello che Angela Merkel pensa dell'Europa e soprattutto dei rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti, perché continuano a esserci nuove rivelazioni sullo spionaggio da parte dell'America, che poi nei giorni scorsi ha rimbalzato le accuse. Ma in ogni caso, quello che l'Europa vuol fare, scrive Spiegel in una sorta di articolo a cinque mani di cinque dei suoi esperti di politica interna e internazionale, è appunto dare all'Europa un nuovo ruolo, forte del fatto che lei resta al suo terzo mandato non solo molto forte nel suo paese, ma sicuramente leader di riferimento nell'Unione Europea. E quindi ci spiega Spiegel: nel suo terzo mandato la cancelliera tedesca sembra determinata ad assumere finalmente la guida del progetto europeo. Per riuscirci sarà cruciale l'alleanza con l'SPD e il suo candidato alla guida della Commissione, Martin Schulz, perché sappiamo che noi sentiamo parlare spesso di larghe intese qui in Italia. In Germania, che è stato forse nel passato l'esperimento di maggior successo di una grosse coalizione, tant'è che ormai tutti chiamiamo queste governi di larghe intese anche grandi coalizioni, ebbene appunto la Angela Merkel, che è di una sorta di democrazia cristiana tedesca, la CDU, deve trovare appunto un accordo, un modus vivendi e cooperandi con la SPD, che è il partito invece socialdemocratico. Ma a parte questo lungo articolo, che comunque, ripeto, potete trovare online sul sito di presseurope.eu o sul sito di Spiegel per chi riesce a leggerlo in tedesco, passiamo invece a un articolo della Gazzetta Wyborcza, che è un giornale polacco. E l'articolo si intitola "Addio a Mazowiecki, l'uomo del dialogo". È morto Tadeusz Mazowiecki, lo hanno sicuramente riportato anche i giornali italiani, è morto il 28 ottobre di questa settimana, lunedì scorso, e la stampa polacca lo ha salutato. È stato il primo capo del governo del paese dopo la caduta del comunismo nel 1989. E Adam Michnik, che è il direttore della Gazzetta Wyborcza ed ex leader dell'opposizione anticomunista tra il 68 e il 1989, ha firmato un tributo a questo suo ex collega su una pagina che era, benché naturalmente il quotidiano sia a colori, era in bianco e nero, e sottolineava che Mazowiecki ha conosciuto la miseria e la gloria della Polonia come nessun altro e per molto tempo è stato il simbolo dell'opposizione democratica e del sindacato Solidarność. Michnik ricorda che Mazowiecki è stato un uomo del dialogo, capace di rapportarsi con individui di schieramenti opposti. È stato un esempio di patriota libero dall'egotismo nazionale e dal nazionalismo etnico. Era un democratico che rispettava il pluralismo e la capacità di trovare un compromesso. Mazowiecki è stato spesso criticato per la cosiddetta politica della linea spessa, con cui ha cercato di chiudere i conti col passato e concentrarsi sul futuro, da cui appunto il termine linea spessa, cioè tracciare un confine, cercare di chiudere una volta per sempre col passato finito, in un certo senso nel 1989 con il crollo del muro di Berlino e appunto l'entrata della Polonia in una nuova era politica ma anche culturale e sociale. Questa linea spessa, però, scrive questo quotidiano, è stata spesso interpretata come un rifiuto di fare i conti con i membri del regime comunista. Ora però anche i suoi vecchi oppositori, come Boguslav Ciarabota, direttore del quotidiano conservatore Rex Pospolita, ricordano il coraggio di Mazowiecki. Passiamo al tema dei dati, delle intercettazioni. Sorrido perché appunto sarà difficilissimo, credo, sapere per noi comuni cittadini che cosa sia successo davvero e magari anche se per caso siamo stati spiati singolarmente. Le Monde quindi scrive: la protezione dei dati è rimandata dopo le europee. nonostante le rivelazioni di Edward Snowden, sapete, insomma, questo ragazzo, questo giovane analista della National Security Agency, che non si sa se per crisi di coscienza o per quali altri motivi, a un certo punto ha cominciato a rivelare tutto quello che non avrebbe dovuto rivelare, che era stato sicuramente convinto e aveva probabilmente anche sottoscritto dei patti per non rivelare, però insomma è da lui che sappiamo molte dei segreti della National Security Agency. Quindi, scrive Le Monde, nonostante queste rivelazioni e il nervosismo degli eurodeputati che chiedono misure contro Washington, i membri dell'Unione Europea continuano a tergiversare. Potremmo aggiungere forse perché magari Washington non ha tutti i torti, anche noi qualche spionaggio con i nostri mezzi lo abbiamo fatto, quindi non siamo, nessuno è al di sopra di ogni sospetto in questa vicenda, e quindi si è tutti molto cauti. In ogni caso, il Consiglio Europeo del 24 e 25 ottobre scorso ha rinviato al 2015 l'applicazione di regole più vincolanti. Secondo il quotidiano, questo è il quotidiano francese, a questo punto un'azione contro i giganti di internet, che lo sappiamo sono soprattutto americani e dei quali qualsiasi sistema di spionaggio non può fare a meno, nel senso che poi ha Google, ha tutti i motori di ricerca che noi affidiamo magari inconsapevolmente i nostri dati, quindi questi colossi americani devono in qualche modo avere dei rapporti con la National Security Agency, che tutto da sola non può fare. Ma appunto i giganti di internet è rinviato a dopo le elezioni europee della primavera 2014 e dopo l'insediamento di una nuova commissione e di un nuovo Parlamento, quindi insomma se ne parla tra un bel po', a meno che, perché ripeto ogni giorno salta fuori qualcosa di nuovo, a meno che non succeda qualcosa che acceleri questa reazione dell'Unione Europea che in molti auspicano. Vi ricordate, settimana scorsa avevamo citato un articolo del Guardian che più o meno diceva le stesse cose. Vediamo all'economia, perché è l'altro grande tema che riguarda tutti noi europei. L'Irish Times, che è il principale quotidiano dell'Irlanda del Nord, scrive: l'Irlanda potrebbe non aver bisogno di una linea di credito per uscire dal bailout. L'Irlanda forse ce lo siamo già un po' dimenticati, perché nel frattempo è arrivata la crisi della Grecia fortissima, ma anche quella della Spagna, del Portogallo e la nostra naturalmente, però anche l'Irlanda ha attraversato un periodo affatto bello, diciamo così. E scrive quindi l'Irish Times: dopo l'incontro del 28 ottobre con il Fondo Monetario Internazionale, il ministro delle finanze irlandesi Michael Noonan ha dichiarato che il paese potrebbe non chiedere una linea di credito precauzionale quando uscirà dal piano di salvataggio della Troica alla fine dell'anno. Noonan ha spiegato che la misura potrebbe non essere necessaria perché all'inizio del mese è emerso che grazie al programma di austerità l'Irlanda ha accumulato riserve per 25 miliardi di euro e ha abbassato il rendimento dei bond al 3,5%. Il ministro ha aggiunto che la decisione finale sulla strategia di uscita dal bailout sarà presa dopo la formazione del nuovo governo tedesco, probabilmente dopo il congresso. Però questo tema dell'austerità è un altro tema che ricorre, l'avevamo citato forse anche, vi avevo descritto questa vignetta in cui tutti gli irlandesi erano in fila davanti a un tosatore come fossero appunto pecore da tosare. L'austerità è sempre difficile per i cittadini, soprattutto per le classi medie e medio-basse, però nel caso dell'Irlanda sembra appunto aver funzionato. Veniamo a un altro tema, perché c'è stato quell'episodio tremendo di cronaca del giovane italiano ucciso in Gran Bretagna, poi non è ancora chiarissimo quali siano i motivi, in un primo momento sembrava proprio che fosse un atto di rabbia cieca per il fatto che questo italiano fosse in Gran Bretagna a lavorare e così facendo, tra virgolette, rubava il lavoro a qualche britannico. Poi l'aggressione è stata in realtà, si è scoperto che è stata fatta da un gruppo di giovani lituani. In ogni caso, il tema dell'intolleranza verso i lavoratori stranieri, quelli che i tedeschi chiamano Gastarbeiter, lavoratori ospiti, anche se magari si tratta di persone che nel tempo hanno ottenuto la cittadinanza, questo è un tema che credo continuerà a riproporsi, specie naturalmente se la crisi economica veramente non finisce. E quindi il Daily Telegraph, un quotidiano britannico, riferisce delle dichiarazioni del primo ministro David Cameron, che diciamo con scarso coraggio ha, secondo me, ha cavalcato quest'ondata di irritazione verso gli immigrati, e la Gran Bretagna è storicamente un paese che si regge per molti tipi di lavori sull'immigrazione. Ebbene, il Daily Telegraph titola: lavori per i britannici, non per gli immigrati. Il primo ministro David Cameron ha dichiarato che il Regno Unito deve dire no ai lavoratori dell'Est Europa e permettere ai giovani britannici di competere più agevolmente con gli immigrati per i posti di lavoro. In un discorso ai dipendenti di una fabbrica di automobili a Cowley, nei pressi di Oxford, Cameron ha sottolineato che in alcune fabbriche britanniche metà del personale proviene da paesi come Polonia e Lituania, mentre i giovani britannici rischiano di restare indietro e di non godere della prosperità del paese perché impossibilitati a competere con i lavoratori dell'est. Il primo ministro ha chiesto una riforma del welfare per incoraggiare le persone a lavorare, migliorare l'istruzione per garantire ai britannici una qualificazione adeguata e fissare un tetto per l'immigrazione. Sempre sul tema dell'immigrazione, sul tema di chi arriva in un paese per lavorare e magari poi incontra, oltre a tutte le barriere linguistiche e culturali, anche le resistenze varie a vario titolo di chi vive in quel paese o di chi è nato in quel paese, segnaliamo un articolo di The Standard, che è un quotidiano belga, intitolato "Da nessun'altra parte gli stranieri lavorano così poco". Nel 2012 appena i 2/3, 62% degli immigrati extraeuropei che vivono in Belgio avevano un lavoro. E The Standard cita le cifre di Eurostat, l'Istituto Europeo di Statistiche. Questa proporzione, nettamente inferiore alla media europea, che è del 73%, si spiega soprattutto con il declino dell'industria del paese e con le esigenze linguistiche dei datori di lavoro belgi. Ma gli immigrati soffrono anche di una discriminazione persistente. I datori di lavoro hanno un pregiudizio, secondo cui gli immigrati sono lavoratori inferiori. Di conseguenza vengono assunti per i ruoli che i belgi non vogliono ricoprire, come quelli a tempo determinato o da apprendisti. Nei paesi dove ci sono lavori più non graditi, gli immigrati hanno un tasso di attività più alto. E concludiamo, perché purtroppo il tempo è tiranno come sempre, con una segnalazione dalla Croix, perché noi italiani siamo quasi abituati ai tira e molla sulle tasse, alle leggi che vengono annunciate e poi magari mai promulgate, oppure annunciate, promulgate e ritirate. Questo problema cominciano ad averlo anche in Francia, dove appunto il premier, il presidente Hollande e il suo primo ministro continuano con questa politica degli annunci che sta parecchio innervosendo i francesi, che non sono probabilmente così abituati come noi. Politica degli annunci soprattutto sulle tasse. Il titolo dell'articolo è "Il governo sotto la pressione fiscale". Purtroppo era l'ultima segnalazione che riesco a fare, ma come sempre vi rimando insomma alla rete o anche alle edicole, che sono sempre più fornite di stampa straniera. Informiamoci, cerchiamo di capire che siamo in un grande puzzle e che è bello sapere che cosa succede, che cosa succede negli altri paesi e come viene raccontato. Un buon sabato e una buona domenica da Giulia Crivelli.